voi tutti conoscete più o meno cos'è Arcesi. È un framework basato su Spring per gestire la sicurezza in applicazioni web, in applicazioni enterprise. Essenzialmente sicurezza vuol dire autenticazione e autorizzazione. Di fatto l'autorizzazione la può gestire sia a livello web, cioè sia su richieste web attraverso i filtri, sia anche a livello di accesso su singoli metodi attraverso opt-in. Allora, quello che ho fatto per Prank è una semplice integrazione di base in cui praticamente l'autenticazione e l'autorizzazione vengono fatti sul DB che viene creato da Prank e utilizzando i DAO sviluppati da Lucio. Allora, prima faccio una demo a loro per vedere cosa si tratta. Qui è la page group up dell'applicativo di Paranque, e questa qui è la fase iniziale. E vediamo che in alto a sinistra abbiamo tre tag, di cui praticamente uno è per accedere alle risorse, cioè alle pagine di amministrazione, e l'altro per accedere alle pagine di utenti comuni. Allora, questa qui è una pagina che non è che è accesso non profilato, quindi chiunque può accedere. Se io chiedo di accedere a una lista di una risorsa protetta, che ad esempio Pippo, automaticamente il sistema accedi e ti rotta verso la fase di login. Questo cos'è che in base a cosa viene? Perché praticamente io ho definito che praticamente tutte le risorse che hanno una determinata slash sotto Pippo sono risorse protette e io ho deciso che il sistema di autenticazione deve essere, cioè la fase di autenticazione dovrà essere questa. E questo viene tramite un file di configurazione basato su Spring, che dopo vediamo. Allora, se io adesso definisco l'utente di base, che allora osservo che praticamente sono entrato nella pagina di People. Automaticamente in alto a destra è comparsa una sezione di logout. Questa sezione di logout è presente nel leader JSP ed è presente nel leader JSP è comune di tutte le pagine di Paranq. Solamente è comparsa adesso perché si tratta di una tag library che visualizza il contenuto solamente se l'utente è stato autenticato. Pertanto in questo caso qui ho il tab di logout. Infatti se io faccio logout vedo che nella volta successiva non c'è più e lei rimane la stessa. A questo punto, se vi chiedo di nuovo di andare alla pagina di Paranco, devo riautenticarvi. Ecco qua, quello che volevo fare adesso sono stato autenticato con l'utente normale. Se faccio richiesta di accedere a risorse di tipo admin, il sistema mi dirotta una pagina di accesso negato. Tra l'altro, chi è che ha rifatto la grafica? Perché era una grafica originale. E questo come è possibile? Questo qui praticamente è il fatto che noi abbiamo profilato l'applicativo, è basato su tramite framework accesi e nel nostro caso l'applicativo di Paranq ha una relazione tra i ruoli e le risorse che è definita in un file di configurazione che adesso andiamo a vedere. Questo qui risorse protette e tipo di ruoli. Allora, si può vedere che io la sezione people l'ho mappata in due tipi di ruoli, l'ho da min e l'ho da parang. mentre la sezione admin è mappata solamente al ruolo di tipo admin, mentre le sezioni di base, non c'era la home page, autenticazione anonima, praticamente non serve essere autenticati. Allora, il vantaggio di... cioè adesso questa invece è la parte riguarda l'autorizzazione, invece la parte di autenticazione la vediamo sempre in questo file di configurazione ed è definita qui, praticamente è la sezione di user detail service. Questa qui viene utilizzata, viene stata fatta utilizzando una classe base di Acege che è praticamente JDBC DAO Inc, in cui praticamente faccio riferimento a un data source, che è il data source utilizzato da, che è lo stesso data source mappato negli altri file di configurazione di Spring, usato da Parangue, e poi abbiamo due query. La prima query cosa fa? Serve per gestire l'autenticazione, infatti mi fa un set username password dalla tabella user profile, well, username uguale condition. E la seconda invece serve per trovarlo, diciamo, il ruolo associato all'username. Allora, attualmente queste qui sono query, quindi che sono in parangue, che vengono fatte tramite JDBC semplici, anzi non proprio JDBC, che ho usato Spring JDBC template, però quello che vorrei fare, che l'ho già fatto per un progetto di lavoro, è mappare queste query qua, cioè costruire una mia classe specifica user service che utilizzerà il DAO di Nugio per fare l'accesso al DB. Praticamente allora, con la prima query faccio l'autenticazione, mentre con la seconda query serve per recuperare l'insieme dei ruoli associato al determinato utente. Io l'avevo già fatto per il lavoro, per il progetto che sto facendo al lavoro, praticamente mi ero definito due classi specializzate che fanno queste due cose qui. Allora, la prima è allora, tramite questa classe qui io posso definire una classe che ecco, l'importante è che implementi questa interfaccia qua, l'importante è che implementi questo metodo qua, lookup attribute. Tramite questo metodo lookup attribute cosa faccio? Io determino tutto l'insieme, cioè un config attribute definition, che è una classe di Acege, che mi rappresenta l'insieme dei ruoli associati a questa URL qui. Acege automaticamente cosa farà? Ogni volta chiama questo metodo qui, quando è richiesto una determinata URL, che verifica se praticamente l'utente è in uno dei ruoli definiti nell'insieme di ruoli di config attribute definition. Io come ho implementato questa classe qui? Sono definito il mio security DAO, che praticamente è un DAO che contiene quel JDBC, e all'inizio, in una fase iniziale, va a popolare recuperare insieme delle copie ruolo risorse web associate alla mia determinata web app. Così automaticamente sono riuscito a mappare nel database l'associazione tra ruolo e risorsa, mentre nel caso di Parangue abbiamo visto che nel file XML, però appunto ho visto che questo è possibile, quindi per quello che dovevo prima annuncio, sarà possibile fare gestire dei DAO che lavorano su più tabelle, e quindi verrà fatto così. E lo stesso invece abbiamo visto per la parte di autenticazione, che sarà qui. Però dico il vantaggio di avere queste classi. Allora, il vantaggio di avere queste classi, essenzialmente tu hai bisogno di due accesi, cioè il discorso della sicurezza si basa su, diciamo, tre entità. Sono gli utenti, cioè la relazione tra utenti e ruoli, e la relazione tra ruoli e risorse. Quello che sono riuscito a farlo nel mio progetto, e penso di riuscire a fare anche qui in Parangue, è quello di rendere dinamico un database questo tipo di associazione. Quindi io a runtime posso cambiare, posso decidere se una determinata risorsa è associata a un determinato ruolo e se un determinato utente è associato a un determinato ruolo. Quindi posso avere una configurazione dinamica totale su queste cose qui. questo era già così, nel senso l'associazione utente ruolo è già nelle tabelle anche quelle SMM. Allora, attualmente in branco abbiamo l'associazione utente ruolo, però è definita tramite la CD che fornisce delle tabelle standard, che però cioè delle classi standard che lavorano però in modalità GDPC. Quindi io cioè, se mi definisco una classe speciale specifica che implementa una certa interfaccia, posso farmi io dei gestori particolari di questo tipo di relazione. Quindi al limite posso fare anche, non so, ad esempio se ho bisogno di una situazione complessa che in parte va su LDA, in parte va su DB, riesco a farla implementando questa interfaccia qui. Il vantaggio di utilizzare Acesicos, che è basato su Spring, è questo, che praticamente posso specializzare certi componenti e rendere più sistema di avere. Quello d'accordo, però il vantaggio di avere le autorizzazioni anche? Il vantaggio c'è nel senso tra la risorsa web e la risorsa... Sì. È quello perché attualmente è mappata sul file XML. Sì. Se un giorno voglio decidere che ad esempio la sezione admin venga ceduta da tutti, non la cambio in XML, la cambio in DB e automaticamente il sistema si ne accorge. Non capisco se è meglio o peggio. Ma quello che si vuole, cioè vuol dire nel caso che se dai in XML tu dovresti cambiare in XML e avere la web application, quindi, cioè, e già questo potrebbe essere. Perché nel progetto che sto facendo il problema è che ad esempio noi avevamo una cosa abbastanza più complessa in cui l'associazione tra i ruoli e le risorse era molto più complessa, non era una relazione tra tabelle, quindi avevo bisogno di quelle specifiche, non potevo, cioè avrei potuto parlare di lì, però suppone che ad esempio un giorno definisco un ruolo nuovo, dovrei andare a cambiare anche XML, secondo me è molto meglio lavorare da database, perché l'applicativo rimane sempre lo stesso. E io lo vedo solo se stiamo scrivendo un portale, cioè vedo il vantaggio solo se uno sta scrivendo un portale, perché in un portale poi cambiare le autorizzazioni, le autorizzazioni dei singoli elementi ai ruoli o agli utenti. Però in un'applicazione normale la riapriamo. Ma diciamo che questo è un... Sto cambiando l'applicazione. Sì, sì, sì. Cioè, al momento praticamente accedi, vediamo, cioè parando tramite accedi, utilizza solamente due tabelle, che sono gli utenti e i ruoli. E di fatto l'associazione è dinamica solamente nel senso degli utenti associati ai ruoli. Se si vuole renderla ancora più configurabile, si definisce una tabella che gestisce l'associazione tra i ruoli e le risorse. Che risorse possono essere web o addirittura risorse che possono essere mail. In questo caso qua riesco a bloccare l'accesso a un determinato metodo, però in questo caso non utilizzando i filtri, ma utilizzando OP, e riesco a bloccare se non ti chiedono il ruolo. Ma secondo me quello sul database è una cosa che tra l'altro non c'era neanche nella guida originale di Spring, lo trovate in un forum, come riuscire a gestire questa cosa qua, e secondo me può anche decidere al volo con una certa risorsa, ad esempio complimenti sono fare una nuova sezione e automaticamente la. Anche perché in quello che sono riuscito a fare questo progetto è una specie di accesi che gestisce l'autorizzazione su una web application, quindi non più a livello di class load della web application, ma a livello di class load dell'application server. E quindi posso fare l'autorizzazione su singoli. Praticamente un giorno decido di fare una nuova web application, no? E praticamente cambio solamente a livello di la configurazione. La bella della web application. Secondo me è molto meglio averlo qui, anche perché hanno requisito di. Ho visto di altre persone di avere un'associazione ruoli risorse, diciamo, dinamico. Questo è corretto, secondo me, il fatto di avere il sistema di applicazione dinamico, puoi scegliere se usarlo, non usarlo, sì, e quale usare. Però personalmente trovo che l'associazione tra il ruolo e la risorsa, che è il cuore del sistema della sicurezza, metterlo su DB sia in antitesi col fatto di avere una situazione di questo tipo, perché quando tu fai l'applicativo che non sia un portale, che non sia un CMS o un applicativo particolare, quello identico, che l'utente si registra e ha una serie di risorse custom per lui, con una casella di posta tipo un numero dove non so, richiedere dei contenuti, eccetera, quelle però sono applicativi. non queste due categorie di applicazioni. Tutto il resto, quando tu hai disegnato l'applicativo, sai quali sono i contenuti che esponi, sai quali sono che vuoi, e l'unica cosa che cambia l'azienda secondo me sono le associazioni tra utente e ruolo, ma i profili d'accesso e le informazioni che metti online, secondo me, come dire, nella vita di un applicativo, non negli applicativi che ho detto, non cambia, quindi metterli su DB, renderli in questo senso anche manipolabili, quindi poi è il punto del problema della sicurezza, non è, come dire, una scelta molto vincente. Ah, vuol dire che sia manipolabile, secondo me è il discorso a livello, sia manipolabile, secondo me. No, capito, cioè, secondo me è il discorso dei rischi, sia manipolabile sul database, che siano manipolabili su un XML, alla fine è vero, ma non è il fatto della sicurezza, non proprio questo, è una scelta concettuale, nel senso che in un caso devi fermare l'applicativo e riavviarlo per avere un cambio di, come dire, permessi, contesti e risorse, nell'altro sono varie su DB. Sì, però suppone, beh, a parte, suppone che tu hai già definito quali sono le risorse. Lo chiedo anche se... Io sono questi, dopo, come dire, ti dico io. No, cioè io ho questa cosa qua perché quello che stiamo facendo noi è un portale per customer care che deve essere sempre attivo e quindi praticamente non è impensabile, cioè, riavviarlo così. Quindi praticamente loro, l'esigenza non è tanto quella di definire nuove risorse da proteggere, ma di definire nuovi ruoli associati alle risorse. Questo è il problema. Cioè, allora, se vuoi definire lo scambiare l'autorizzazione alle singole.